Allora, no, raccontatemi tutto di che cos'è Ex, cioè, facciamo finta che io non sia mai entrato in Ex Centrale, non abbia mai, non sappia nemmeno che cosa sia. Che cos'è Ex Centrale? Innanzitutto ringraziamo Mia che vi ha invitati. Grazie Mia. Ciao Mia, spero tu ti sia meglio, ti stia riprendendo. Ottimo. E, perché questo io lo sento solo di qua? Vabbè. Vabbè, inizio un po' io. Dai, raccontaci tu, Federico, che cos'è Ex Centrale. Allora, vabbè, ciao a tutti e tutte. Io sono Federico, per chi ci ascolta. E sono appunto un Ex Centrale, nasce nel 2019. E, uno spazio concesso dal comune che è. E, insomma, l'assemblea viene dall'esperienza di occupazione e lotte sul territorio bolognese del laboratorio Crash, che nel 2017 viene sgomberato, nell'agosto del 2017 viene sgomberato e dopo una serie comunque di momenti di riappropriazione e di lotta comunque sul territorio abbiamo ottenuto lo spazio appunto che adesso è in via di Corticella, che si chiama Ex Centrale, l'hub delle periferie. Abbiamo deciso di chiamarlo hub appunto delle periferie perché crediamo che questo termine sia appunto e possa simboleggiare quello che vogliamo portare noi all'interno di quello spazio, quindi momenti di socialità, momenti di autogestione, di confronti insieme a tanti e tante persone, soggettività che vogliono esprimersi, hanno bisogno magari di uno spazio che come sappiamo e come ci siamo accorti anche direi anche spesso e volentieri non, in questa città non ce n'è insomma per chiunque voglia, quindi appunto vuole essere un po' un luogo in cui appunto tutte queste esperienze si intreccino e collaborino e si esprimano poi in città nella miglior maniera possibile. E cosa succede in questo spazio? Che tipo di creatività abbiamo? Allora io... Buonasera a tutte e tutti, io sono Sissi di Ex Centrale. Allora, quello che si è creato sicuramente in questi 4 anni all'interno degli spazi di via Corticella 129 è una comunità. Possiamo parlare di comunità perché, come dire, la nostra agenda settimanale inizia il lunedì con la nostra assemblea politica e il giovedì invece ci sono le attività del dopolavoro che in questo momento sono curati da degli operatori sanitari, delle ambulanze, e quindi il dopolavoro di Ex Centrale è diventato il DLS, il dopolavoro sanitario, dove tendenzialmente si riuniscono una serie di precarie della sanità. Questo anche insomma tutta questa roba qua è stata creata un po' a causa della pandemia, nel senso che insomma nella fase pandemica, quando all'inizio c'è stato dato lo spazio, noi ahimè non siamo riusciti insomma a poterlo utilizzare e abbiamo provato insomma a fare il primo step di quello che è ora Ex Centrale con un progetto di rigenerazione dal basso, e sicuramente insomma siamo riusciti a sistemare almeno la prima parte, quella del giardino fuori, grazie alla solidarietà insomma del quartiere. Perché lo spazio l'avete avuto praticamente poco prima della pandemia, o sbaglio? Sì, qualche 3 mesi prima che scoppiasse la pandemia. Okay. E questa è la cosa assurda. All'interno di, cioè in quel periodo lì, l'unica cosa che si è creata all'interno del nostro spazio è un'assemblea che è stata poi nominata Assemblea della Salute per il territorio, che è stata sicuramente un'esperienza molto formativa sia a livello militante per tutte e tutti noi, ma anche proprio come dire a livello personale per le persone insomma che hanno attraversato lo spazio in quella fase pandemica. Ci si beccava tendenzialmente per parlare di quello che stava accadendo, quindi abbiamo dato anche la possibilità di non sentirsi sole, di non sentirsi soli, e dall'attivazione comunque di quella fase lì è nato anche la spinta di poter aprire lo spazio sempre più per il quartiere, per la cittadinanza, quindi l'idea di aprire un dopolavoro, e poi da lì quasi naturalmente un dopo lavoro sanitario, quindi per cui il giovedì spesso all'interno di Ex Centrale si vedono ragazzi e ragazze, ma adulti, adulte, ancora in divisa da infermiere o da ambulanziere, che attraversano il nostro spazio per, come dire, distrarsi dopo il lavoro. Quindi il lunedì l'assemblea, il giovedì abbiamo il nostro dopolavoro, il venerdì e il sabato invece è il momento in cui diamo spazio effettivamente all'arte. All'interno di Ex Centrali sono nate una serie di progetti, proverò a ricordarmeli quasi tutti così nessuno si prende male, ma è un po' complesso. Allora, sicuramente tra le cose più belle che siamo riusciti a fare è il festival, che poi in realtà facevamo anche all'interno di Cooperazione. La prima sperimentazione di Periferic è avvenuta proprio quando ancora avevamo gli spazi in via della Cooperazione, che è un festival insomma che si proponeva di raccontare le periferie da un punto di vista fotografico, musicale, di arti visive, e questa esperienza poi è stata ovviamente riportata all'interno dei nostri nuovi spazi in via della in via di Corticella 129. E per esempio ora abbiamo delle fantastiche facciate rifatte da Andrea Casciu, che salutiamo, ciao. Grazie Andrea, e che insomma chiunque viene allo spazio è la prima cosa che vede e si complimenta con noi. In realtà dovrebbe complimentarsi con l'artista, perché è stato comunque capace, in ogni caso, nonostante non sia, come dire, un'immagine di lotta militante, a riportare comunque un'immagine che fosse personale, fosse nostra, e quindi quello è sicuramente stato un grosso lavoro, anche che partiva anche dalla nostra volontà di voler fare, di rigenerare tendenzialmente quel posto. Ti interrompo. Dimmi. Perché devi sapere che a Radio Città Fugico c'è un signore che si chiama Marco Roma, che tutti i giorni manda un vocale cantato, e Coxo Spaziale all'inizio della trasmissione deve rompere il ghiaccio e farcelo sentire. Per ok, cui perfetto. Sentiamo cosa ha cantato oggi. Pronti? Buongiorno! C'era scritto presso poco così su quella vecchia pergamena, un fiore di lilla, te lo dedico stamattina. Buongiorno da Marco Roma. Visto, te lo dedica a te, sì, stamattina. Grazie Marco, Marco. Ti saluto anche se non ci conosciamo. Che devo fare? Devo continuare a parlare? Se vuoi, se no, okay. se no mettiamo un pezzo. Anzi, mettiamo un pezzo, così dai, io mi verso un altro. Così poi arriviamo al fine settimana, così raccontiamo, esatto, qualcosa di divertente. Ok, eccoci qua. Forse sì, è partito qualcosa. Jengistvis valkoisen spigin volta. Ne parliamo poi dal vivo. Abbassiamo un attimo questa simpatica musica. Facciamo che qualcuno mi ponimi delle domande. Io così ti pongo delle domande. Infatti, dai, la mia domanda che ti ho fatto quando eravamo offline era: e dunque vi siete dovuti associare per avere questo spazio? No. E mi hai risposto di no. Infatti, questo è interessante. No, siamo stati riconosciuti come realtà sociale dal comune di Bologna e niente, lo spazio ci è stato dato in questa formula di riconoscimento del lavoro comunque sociale, artistico e culturale che avevamo fatto all'interno della città, in particolare sullo spazio di cooperazione, ma poi insomma in tutti gli anni di vita e di storia del laboratorio Crescio, che insomma ha una storia ormai ventennale cittadina, quindi è stata riconosciuta. Ovviamente sono soddisfazioni, certo, però siamo solo all'inizio perché vi hanno dato un sacco di soldi, naturalmente. Non ci hanno dato un sacco di soldi, ci hanno dato uno spazio che non si reggeva. Che avete dovuto restaurare completamente. Rigenerare, no? Non abbiamo ancora finito. Okay. Cosa vi manca? Vai. Innanzitutto ci manca l'acqua. L'acqua, cavoli, cioè nel dici senso, niente. No, esatto, no, nel senso che comunque, appunto, come... in teoria no, il comune delle utenze necessarie dovrebbe occuparsi, certo, lui in prima persona, non ma fa altro che pensare alle vostre esattamente utenze necessarie. Esatto. Naturalmente, e siamo 4 anni senza acqua. Ah, dimenticavo che i vostri amici possono mandarci dei vocali o dei messaggi al 333 180 94 94, sia per SMS che per WhatsApp. Anzi, adesso vado a controllare che non sia arrivato un messaggio. No, ok, abbiamo solo dei vocali di Marco Roma. Ok, a posto. Che salutiamo sempre. No, dicevo, appunto, noi 4 anni che siamo senza le fognature e l'acqua corrente. Non era una centrale del latte quella? Ma era una centrale del latte. Non ci sono più le fogne. Chi è che si è rubato le fogne? Cioè, erano di rame. In disuso dal 54. Ah, wow, quindi, dal 54. Sì. E quindi come siamo entrati... Insomma, ci siamo fatti strada con un macete per levare i rovi perché non si apriva neanche il cancello. No, però comunque, grazie alla solidarietà... Il macete ce l'hai tu sotto il letto. Non no! Però grazie alla solidarietà del quartiere e allo sforzo collettivo nostro di tante, tante persone, siamo riusciti comunque a mettere su uno spazio che... Adesso può ospitare dal momento ludico all'assemblea, alla presentazione dei libri, alla cena sociale, insomma molto con più opzioni di iniziativa, addirittura anche incontri di box all'aperto con il ring montato nel giardino, box popolare. Wow. Ma il quartiere come vi ha accolto? Com'è stata? Devo dire che ha amato da subito. Comunque c'è stata fin da subito. Siete abbastanza amorevoli adesso. Io vi posso vedere, ma i nostri ascoltatori no, però magari vi possono venire a vedere alla centrale. Diciamo che fin da subito c'è stata curiosità. Mm-hmm. Perché comunque... Perché poi che zona è quella? Quella lì è Corticella. È una zona Bolognina. Abbastanza, cioè storicamente abbastanza comunitaria, no? Come, sì. con un'idea di comunità abbastanza elevato, che sì, uno sì, pensa sì, che sia tutto il mondo sia così, poi invece scopri che appunto vai in un altro quartiere, cioè non neanche in un'altra città, vai in un altro quartiere e ti accorgi che in un altro quartiere ognuno si fa i cazzi suoi e nessuno chiede niente a nessuno. Mentre invece immagino che un sacco di gente sarà venuta a chiedervi che cosa state facendo, finalmente ripulite questo spazio, cosa succede? Sì, guarda, come ti dicevo prima, c'è un sacco di curiosità da parte del quartiere, però comunque direi che possiamo dire che abbiamo avuto anche un riscontro positivo perché appunto ci sono venuti a trovare in tanti, in tante famiglie, sono passate le iniziative soprattutto dell'Assemblea per la Salute. Anche da lì abbiamo iniziato a vedere un po' di gente che abitava in zona, in zona Corticella, e poi piano piano alla fine diciamo che il quartiere si è abituato anche alla nostra presenza ed è al casino che fate di sabato sera. No. Siamo rispettosi. Bravi. A che ora finite? Alle 4. Perfetto, dai. Tanto chi è che di sabato sera va a letto prima delle 4? Nessuno. No, e qua ti voglio, però forse poi lo puoi raccontare meglio tu. Noi abbiamo attivato anche tutto un progetto di crowdfunding, mm-hmm, che ci ha dato la possibilità insomma di sistemare lo spazio per non dare fastidio neanche al vicinato. Quindi nel nostro piccolo... Siete insonorizzati? Nel nostro piccolo sì. Wow. E quindi tendenzialmente in estate non siamo neanche aperti dentro, cioè chiudiamo a mezzanotte in estate perché utilizziamo questo enorme giardino che è la prima cosa che abbiamo sistemato, quindi non siamo i peggior vicini del mondo. Anche perché tendenzialmente, soprattutto in primavera e in estate, col fatto che apriamo il giardino è proprio attraversato dal quartiere, certo, dalle famiglie, da socialità anche diversa del sabato sera, anche se noi abbiamo una platea effettivamente complessa, variegata. Cioè, sì. Sì, veramente non so, cioè andando a ballare in altri posti mi rendo conto, ai concerti, che cioè tutto un tipo di persona che va a ascoltarsi quella roba lì, da noi viene la gente anche se non sa cosa fare, mm-hmm, e quindi tendenzialmente quello che può essere un centro sociale, certo, e che la gente viene, sta, socializza e si prende quello che arriva, insomma. Sì, cioè nel senso... Come è giusto che sia. Ma e dunque come vi finanziate voi? Domanda da un milione di dollari. Esatto, allora tendenzialmente noi non ci finanziamo con i nostri sostenitori. Mm. E che è l'unica maniera tendenzialmente per andare avanti. Il nostro finanziamento in ogni caso serve a autofinanziare uno i progetti culturali, artistici e musicali, perché comunque crediamo che sia importante che la musica venga pagata, che l'arte venga pagata, certo, e questo è uno dei principi fondamentali della nostra assemblea di gestione. E il resto serve per sistemare ex centrale, e proprio in questo momento chiedevo a Federico come erano andati oggi i lavori, perché stiamo costruendo i bagni, mm-hmm, e perché fino ad ora abbiamo pagato una società privata per avere dei bagni chimici. Oh, wow. E perché ovviamente non puoi aprire le porte di un posto senza dare dei servizi primari. La prima cosa che abbiamo fatto banalmente è stata quella di costruire una rampa per i disabili, per far sì che il posto sia inclusivo per tutti e tutte. Però anche il bagno è una roba che, certo, rende comunque un posto più attraversabile, diciamo. Quindi ogni minimo centesimo che entra nelle casse di ex centrale serve a sistemare il posto e poterlo ridare alla cittadinanza, che è poi il progetto con il quale il comune ci ha dato il posto. La questione era: vi autofinanziate e rigenerate quel, okay, posto che era chiuso dal 1954, e al massimo quello che c'era dentro erano insomma topi e detriti. E quindi è stato riaperto finalmente un posto alla città. Ce ne sono tanti ancora chiusi, c'è tanto bisogno di spazio, certo, c'è tanto bisogno di socialità, e noi ci auguriamo insomma che possano sempre aprirsi degli spazi, liberare spazi per la cultura, ma per qualsiasi insomma tipo di attività che possa rendere, come dire, migliore la socialità e quello che gira in questa città, perché effettivamente anche la problematica che ora hai bisogno di 10-20 euro per andare a farti una serata che musicalmente è bella, o andarti a vedere una mostra d'arte a quel prezzo lì, a noi tocca come socialità politica, quindi noi proviamo, certo, a dare comunque qualcosa, non chiedendo tendenzialmente quello che deve chiedere il capitale per poter fare una mostra, e comunque di cose belle ne facciamo. Parlando alla fotografia, ora mi veniva in mente il collettivo di Cesura, che comunque da Milano siamo stati i primi a Bologna ad ospitarli, poi ovviamente abbiamo aperto il mondo ad altre gallerie, ad altre cose che ovviamente l'hanno visto fare a noi e l'hanno fatto altrove. E tutti i nostri progetti musicali sono visti bene, nel senso che comunque non siamo stati noi intelligenti, ma bensì la nostra comunità, quella che si è creata intorno a noi. Parliamo un po' dei progetti, che dici? Vai. Ok, dai. Io così, ma senza preferenze, inizierei da Sinestesie, che è un progetto nato lo scorso anno all'interno di Ex Centrale, che insomma ha un fondatore ideologico di questo progetto che si chiama Abo, che è un ragazzo che fa anche produzioni e pubblicazioni, hanno un'etichetta discografica alle spalle creata da loro e fanno musica elettronica. E a maggio ci sarà anche uno special del loro format di domenica nel nostro giardino, e proprio perché insomma vorremmo dare la possibilità di attraversare anche quel pezzo lì di Ex Centrale anche alle famiglie, che tendenzialmente se siamo aperti la domenica vediamo che funziona, anche se c'è dell'elettronica, anche perché non fanno dell'elettronica, come dire, pesa, fanno elettronica, che è una musica anche da composizione, e che finalmente insomma sta riscuotendo il meritato, secondo me, audience e pubblico, perché c'è un'idea comunque a volte strana di cos'è l'elettronica, invece i ragazzi comunque vengono tutti da scuola di composizione e hanno messo su questo format che è molto interessante. E noi come compagne in primis di Ex Centrale avevamo invece l'esigenza della creazione di una festa che fosse insomma aperta a differenti soggettività, mettiamola così, e quindi che potesse aspirare alla creazione anche di spazi safe per delle minoranze, se così vogliamo definirle, ahimè. E quindi da questa spinta di tutte e tutti noi è nato questo format che si chiama Transistor, che ovviamente prende il titolo dal famosissimo film Transistor, che parla di musica elettronica, appunto. L'ultima data che abbiamo fatto di questo format sono venute delle compagne dalla Colombia, che fanno, diciamo, seminari sulla musica elettronica, creando però spazi safe, e quindi c'è anche un discorso, diciamo, sociale a parte la produzione musicale. È stato un momento secondo me molto bello. Confermo. E ha attraversato un sacco di gente lo spazio, erano comunque artisti di punta di quel genere, di quella scuola lì, che però ovviamente da noi sono venuti, diciamo, in maniera quasi benefit. Perché purtroppo noi non siamo ricchi, non possiamo dare cassette. È un discorso un po', però insomma. No, è un discorso complesso in realtà, quello appunto di pagare gli artisti, eccetera eccetera. Nello stesso tempo dare spazio all'espressività è una sorta di cioè, adesso non è un pagamento, è una però è altrettanto importante, soprattutto per gli artisti che appunto non trovano canali di espressione, perché magari fanno cose che sono difficili per il grande pubblico, no? Assolutamente, però come ti dicevo, a noi piace insomma poter riconoscere il lavoro di questi artisti, quindi o gli diamo dello spazio, che è anche quello che tendenzialmente serve in questo momento in città, o comunque gli paghiamo il viaggio e li facciamo venire, perché a noi insomma interessa dare spazio a delle realtà che probabilmente in altri contesti non lo trovano questo spazio, ed è brutto comunque. Perciò dicevo, mi auguro che di esperienze come le nostre ne possano nascere sempre di più, anche perché, cioè, gli spazi come il vostro sono importanti anche per sperimentare il fallimento, secondo me. Cioè, adesso il fallimento è una parola grossa, però intesa come sperimentazione per vedere se qualcosa funziona o non funziona. Adesso io in questo momento sto parlando da artista, no? Certo. E se penso appunto alla possibilità di mettere insieme delle opere per vedere se funzionano, fino a che non hai uno spazio grande, uno spazio, che ne so, adesso dipende dal tipo di progetto che uno ha, però fino a che non hai uno spazio che ti permette di farlo, non puoi vedere se questa cosa funziona. E dunque, quando uno spazio come il vostro mi ospita, per dire, cioè parlando di me stesso, posso permettermi di fallire, di fallire nel senso di fare qualcosa che poi mi accorgo che non funziona. Però è fondamentale poter fare questa esperienza, capito, in uno spazio come il vostro, perché uno spazio come il vostro si può permettere di non avere cioè di non avere un riscontro che può essere commerciale, ma anche un riscontro di gusto del cioè ci può stare, capito, che io vengo, faccio musica di domenica pomeriggio e le famiglie dicono cos'è sta merda e se ne, va, e se ne vanno, capito? Sì, però perché non è un fallimento. Non è un fallimento, no, certo. È un no, ma trovare, io ho usato la parola fallimento perché in realtà penso che sia importante dare spazio al fallimento, cioè accettare sì. il fallimento proprio come qualcosa che non ha funzionato, capito? Che è qualcosa che in realtà noi tutti gli esseri umani hanno esperienza nella loro vita di qualche tipo di fallimento, che può essere anche un fallimento emotivo, un fallimento di una relazione, eccetera. Però è una cosa che cioè il no, la parola fallimento è un tabù, no? Non si può fallire mai, capito? Per cui la devi chiamare esperienza negativa, la devi chiamare qualcos'altro, mentre invece secondo me si può tranquillamente chiamare fallimento, capito? Su questa scia potremmo dirti che forse ogni volta che siamo stati sgomberati dovevamo viverlo come un fallimento, ma invece un fallimento positivo, un fallimento positivo, certo. Perché è la forza di andare avanti, esatto. Di rioccupare un altro posto, di capire che tendenzialmente c'è bisogno di spazi in città. Assolutamente. Vi devo interrompere invece perché il nostro fallimento è che ahimè la radio campa con le pubblicità, per cui alle 20:32, certo. In ritardo di 2 minuti, ecco le pubblicità delle 20:30, che comunque sono poche. Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. Fiera della Canada. Coxo Spaziale. Coxo vista, scusa, nel frattempo io alzo le cuffie. Hai ragione, l'archivista, no vabbè, ma questi sono affari tuoi per cui no, che non vuoi, no. Che non vuoi condividere con tutta Radio Città Fujiko, insomma. No, ti chiedevo delle assemblee del lunedì, che cosa succede in questa, ma litigate oppure siete tutti amici e tutti contenti? Siamo tutti amici e tutti contenti, tra parentesi ne approfitto anche per fare un po' di pubblicità, posso? Beh certo, assolutamente. Noi lunedì abbiamo aperto un percorso di un laboratorio di teorie antagoniste una volta al mese. E lunedì prossimo, molto interessante. Sì, e, sono curate da docenti universitari, da storici. E il prossimo lunedì sarà il 17 aprile. E, la controformazione sarà fra organizzazione, genealogia e modelli con Gianni Iannatuono e Valerio Monteventi di VAG 61. Sono sul sito, potete trovare anche delle letture introduttive per prepararvi al percorso seminariale. E nulla, vi aspettiamo ovviamente in via di Corticella 129. E quindi. A per tornare ora? Non hai detto alle ora? 20. Alle 20. Alle 20. Ma come alle 20 non possono venire? mi dispiace. C'è Coxo Spaziale, devono stare e quindi, a casa ad ascoltarmi. In realtà una volta al mese stiamo sperimentando questa forma, diciamo, di assemblea aperta dove prendiamo, insomma, ci confrontiamo e ci formiamo anche su cose del quale sentiamo necessarie anche per la creazione degli eventi. Banalmente torna tutto il discorso che ti facevo prima della creazione degli spazi safe, che abbiamo sentito l'esigenza di costruire, certo. Con il format di Transistor. E ahimè, insomma, purtroppo fra precarietà, studi, non abbiamo sempre la possibilità di poterci leggere quei mattoni enormi. Chiaro. Che vorremmo leggerci, e quindi il seminario del lunedì è anche un momento, insomma, di confronto per tutte e tutti noi. E quindi, a parte non litigare lunedì, perché non litighiamo, discutiamo, che è una cosa fondamentale, certo. per una società, per chiaro. Una collettività. E quanti siete? Tanti. Una quarantina, sì. No, cavoli. Di più. 45, dai. 60 wow. Pure. Sì. Cavoli. Ma poi in realtà, poi quanti siamo? È una comunità. Viviamo di tante. Di tante sfaccettature, realtà, certo. Sì, dagli studenti medi, le lotte alla logistica, i compagni e le compagne del dopolavoro sanitario, i compagni e le compagne dell'archivio di Via Vesella, l'università. gli storici docenti universitari che ormai io praticamente sono più ex centrale che altrove. Ho capito. Cioè, beh, quando ti parlavo di comunità è perché effettivamente ormai, cioè, il contarci quelli che vengono sempre alle assemblee del lunedì, ok, ma la nostra comunità è molto più ampia. Mm-hmm, certo. Ed è quello che volevamo da sempre fare, e forse con lo spazio di via di Corticella ci sta riuscendo, ma proprio perché il quartiere si presta. Quindi è tutto molto, anche volendo, più semplice, cioè proprio si presta ad essere centro di questioni. Quindi è tutto molto bello. Possiamo tornare a fare pubblicità ai nostri format? Certo, okay, dai. Okay. No, anche perché appunto dopo poi ti darò la mia email, perché noi abbiamo questo angolo della menzione che fra un po' lo parto, dove giustamente tutto quello che ha a che fare con... che bello Cox e quanto bravi i ragazzi di Ex Centrale, ci hanno appena scritto. Che bel collettivo, sempre un piacere andarli a trovare. Grazie. Saranno sicuramente i nostri. Che... Dici? Boh, non lo so. No, scherzo. Adesso continuo. Oddio, sta scrivendo ancora, però. Non è che possiamo stare qui ad aspettare che arrivi il prossimo messaggio. No, dicevo, no, appunto, in realtà è importante, perché per esempio io non sapendo che facevate anche cose artistiche non sono mai venuto, perché vabbè, io sono un po' fissato con l'arte, per cui vado solo dove c'è arte. Giusto. Mm-hmm. E per il momento non possiamo ancora spoilerare nulla, okay, però anche sulle arti visive stiamo organizzando qualcosa di molto interessante per i mesi un po' più caldi, certo. Intendo aprile-maggio, però per il momento dobbiamo stare ancora in silenzio. Mm-hmm. Però tornando invece sui format musicali e l'esigenza di spazio del quale parlavamo prima, banalmente abbiamo una comunità che si occupa di sound system culture. Hai presente che cos'è? Coloro che costruiscono sound system autocostruiti. Ah, bello. Sì, e ne abbiamo qua un po' ormai. Hanno scritto anche no Federico e soprattutto le grigliate, non so che cosa che cosa intendano. Ok, allora la nostra comunità sound system, e noi abbiamo una serie di crew. Mm-hmm. Perché loro si definiscono crew invece di collettivi, che insomma vivono gli spazi di Ex Centrale e che tendenzialmente hanno questi sound system autocostruiti, che fanno questa musica ad altissimo volume, che però con la nostra insonorizzazione non si sente affatto e nel non quartiere. Okay. E abbiamo praticamente, come le definisco io, le tre generazioni di sound system cittadini, perché poi stanno tutti nello stesso spazio, questo che fa ridere come cosa. Okay. E abbiamo effettivamente i tre portatori della cultura sound system a Bologna. Abbiamo i più anziani, scusatemi ragazzi se mi state ascoltando, che sì, sono, no, i Rise and Shine, non è un termine molto carino. E poi abbiamo i mezzi, anche perché che sono più giovani di me, non lo so, non lo penso so. Okay. Poi abbiamo, diciamo, i Medi, che sono i Bandolero Movement, che è una crew che insomma fa sempre eventi legati alla sound system culture. E poi abbiamo i giovani giovanissimi, che si chiamano Peaceful Warriors. Dillo tu che io ce la posso fare. I Peaceful Warriors. Hai capito. Che sono i giovanissimi, che ne approfitto per pubblicizzare una loro serata. Il 13 maggio negli spazi di Ex Centrale ci sarà un nome di punta di quella scena, wow, lì, che si chiama Steve Vibronix. Ok, e il 13 maggio. 13 maggio. Sì, quindi vi aspettiamo tutte e tutte. Lo ribadiremo il lunedì precedente nell'angolo della menzione. Ti ascoltiamo, Cioè non c'entra niente sto pezzo. E soprattutto le grigliate. E soprattutto le grigliate. La rata scorre por la penumbra del callejón. Tu madre baja con el cesto y sale. Musica così leggera ce l'avete? Seguro che acaba. la farei molto volentieri, sinceramente. Però qualche volta è capitata. Una serata anni 80, no? Sì. Perché sai che dopo Coxo Spaziale c'è questa trasmissione che si chiama Panta 80. Ma bellissimo! Sì, io comunque sono fan degli anni 80. Ah, grande. Allora puoi ascoltare Panta 80 dalle 9 alle 10. No, ma io comunque vi ascolto, quindi probabilmente l'ho ascoltata. Anche questa è abbastanza. No, in realtà l'originale di questa era anni 80, questa è un rifacimento. Ma in realtà dobbiamo andare a fare questa cosa qua. L'angolo della menzione, ovvero giovedì 6 aprile dalle 16 alle 21 Black Box, mostra personale di Milan Vagac. La mostra espone una selezione di opere inedite nata dalla riflessione sul rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Nell'estetica contemporanea lo spettatore rimane sempre di più affascinato dalla superficie seduttiva dei device senza interrogarsi sui funzionamenti interni, circuiti del computer, cavi e metalli preziosi. Tutti questi elementi nascosti sotto la copertura plastica dell'apparecchio rimangono inaccessibili al fruitore comune perché nascosti all'interno di scatole nere. L'artista, attraverso il medium pittorico, grazie all'uso della trasparenza delle tele, alla struttura del telaio in legno, realizza superfici illusorie di dispositivi astratti mostrando strati e meccanismi nascosti. Accompagna la mostra un testo di Domenico De Chirico e questo è a Labs Contemporary Art, via Santo Stefano 38 a Bologna. Adesso vi ho rialzato il microfono, per cui giovedì dalle 17 alle 20, sempre 6 aprile dalle 17 alle 23 inaugura la personale di Farid Rahimi con opere di grande formato a cura di Saverio Verini. Questo è al Capannon, non so mai come si pronuncia, al Capannon, come è bolognese, Capannon, di via Imelda Lambertini 5 a San Lazzaro di Savena. Adesso vengo a prendermi un altro po' di vino anch'io. Anche perché qua abbiamo già quasi finito, erano quasi tutte la settimana scorsa le inaugurazioni. Invece venerdì 7 aprile, anche perché fra un po' è Pasqua, non so se voi, cosa fate? Voi andate in ferie o... Io sì, vado via, non so. O tenete aperto, ok. Beh, giustamente, siamo chiusi. No, ma infatti ci sta. Venerdì 7 aprile invece dalle 14 alle 19 uno spazio del Museo Morandi è diventato laboratorio aperto a cura di Mariella Agnani, dedicato al restauro dell'opera di Giorgio Morandi, autoritratto del 1914, che qualche mese fa ne abbiamo parlato anche qui a Coxo Spaziale. Il pubblico può assistere alle fasi dell'intervento di restauro a cura di Mariella Agnani tutti i venerdì a partire dal 17 marzo fino al 12 maggio, dalle 14 alle 19. L'ingresso è con il biglietto per il Museo Morandi. Questo è il Museo Morandi in via Dominzone 14 a Bologna. È finito l'angolo della menzione, per cui possiamo ricominciare a parlare del fatto che chiudete per Pasqua. Come mai? E i poveri, i non credenti che domenica non hanno un cazzo da fare, che cosa devono fare? Beh, vabbè, diciamo che chiudiamo perché andate in Pasqua. E questo farò un momento spot dell'ultimo weekend. Sì. Abbiamo appena avuto un weekend di fuoco. Infatti. Perché oltre appunto ad aver ospitato Sinestesie il 31 e il 31 di marzo, l'1 e il 2 aprile c'è stato un festival che si chiama organizzato con i ragazzi e le ragazze di Symptomatic. Mm-hmm. Sono come è andato? Molto bene, nel senso che comunque crediamo insieme anche a loro che questo progetto possa avere una grande valenza, in quanto comunque il discorso dell'autogestione appunto anche nella costruzione di questi eventi qua si palesa molto ed è molto molto presente, cosa che magari non sto parlando con delle crew che collaborano con noi, ma in generale magari negli spazi in altri posti non vedi, nel senso il come caratterizzare lo spazio. Cosa fare oltre al momento di musica, appunto in questo caso abbiamo fatto un sabato live techno, nel uh-huh. senso non DJ set ma techno fatta con i modulari. Grande. E la domenica abbiamo fatto un workshop su costruzione e magari uso di Ableton e questi tipi di software che possono magari iniziare a caricare le persone, i giovani e le giovani che vogliono iniziare a suonare ma che appunto hanno delle difficoltà magari a trovare posti. E qui, vi dovete scusare per esservi dimenticati gli MP3 per poter suonare i pezzi, esatto, dei vostri colleghi. Ci però sappiate appunto che anzi, lo diciamo direttamente a loro, scrivete a coxospaziale@gmail.com e mandate i vostri MP3 e noi giuro che li suoneremo. Assolutamente. Anche se sono inascoltabili. No, ma c'è poco di inascoltabile. No, ma infatti lo so benissimo, anzi. No, ma noi siamo super, uso il plurale maestatis perché mia è terribile per la scelta musicale. Dico, noi siamo molto aperti a qualunque tipo di esperienza musicale, anzi. Grande. E dunque domenica si poteva venire a imparare a fare musica tecnica. Esatto. Che bello. Cosa che comunque si può fare anche durante la settimana, perché sempre con i ragazzi di Syntomatic e abbiamo aperto un progetto infrasettimanale che è un corso di su uso di Ableton per fare DJ o mixing. Io sono una studentessa del corso. Sì, grande. Sì, è una studentessa di questo corso, molto bene. E insomma, comunque crediamo che. Ma poi alla fine del corso fate il saggio. Spero di no. No, che okay, io voglio venire a sentire il saggio. Il saggio di Ableton. Ci sarà, secondo me, comunque. Anche non ne ho la sicurezza, secondo me ci sarà. E poi che altri corsi fate? Cioè, con lo spazio immagino che non sarà l'unico corso che fate, o sbaglio? Al momento come corso sì, però c'è già in atto un progetto che vista anche comunque il livello di lavori che è molto elevato, che al momento non ha sede a Ex Centrale ma in via Vesella, c'è la radio spoiler. C'è un progetto che abbiamo fatto abbiamo presentato anche alle persone, aperto che è appunto una sezione dell'Emilia Romagna di Radio Onda d'Urto. Okay. E quindi Ex Centrale avrà una stanza adibita a questo tipo di progetto qui. E ovviamente tutta da rimettere a posto. E dunque ci farete concorrenza. Lo sanno già tutti in città. Possiamo salutare anche il vostro presidente Alessandro, giusto? Il direttore. Lo sa perfettamente. Cioè è venuto anche. L'abbiamo chiamato. Vabbè, allora, per la prima allora iniziativa fuoco targata amico, bene, Radio. Radio Città, Radio Onda d'Urto Bologna, l'abbiamo invitato a parlare di radio perché certo, Alessandro comunque è un po' che fa radio lui. Direi di sì, anche perché è rimasto l'ultimo a fare radio del nostro progetto, però grande con il problema della rigenerazione degli spazi di Ex Centrale. Al momento comunque diciamo che insomma, sappiamo, no, che per fare una radio non è che sì, non basta è mettere a posto due esatto. muri e no, tutte le attrezzature. Sì, no, considera che quest'inverno abbiamo fatto un crowdfunding anche noi di Radio Città Fungico proprio per il fatto che sapendo che prima o poi dobbiamo passare al digitale, per cui che è una spesa enorme per una radio che è una radio associativa come la nostra, insomma. È andato bene il crowdfunding, presumo che ne faremo un altro anche l'anno prossimo, fino a che non avremo abbastanza soldi per poter passare al digitale, ma lascio ai miei capi la parola su tutto questo, perché io non sono molto dentro al mondo del digitale, cioè so che bisogna cambiare praticamente tutto. Sì. E prima o poi arriverà un decreto legge che imporrà alla radio di diventare digitale, così come è successo alle televisioni. Ahimè sì, pure per noi la problematica tendenzialmente sulle frequenze certo. emiliane è la stessa, però c'è la volontà di iniziarlo quel progetto, quindi chiaro. Visto che in un centro sociale come il nostro potrebbe dar spazio anche a delle voci che magari alternative, non no? Hanno anche trovato. Perché c'è tanto bisogno di voci alternative, cioè considera che Radio Città Fujiko è rimasta l'unica, adesso so. L'unica radio alternativa tra virgolette che abbiamo in tutta la città, insomma. Noi in realtà siamo ospiti di Fujiko in diverse vesti spesso, mm-hmm. ma poco tempo fa siamo venuti a, per Transistor, l'evento certo. del quale mm-hmm. ti parlavo poco fa con le compagne, e vi abbiamo sostenuto anche durante la campagna, ci teniamo a dirlo. Grazie. Abbiamo addirittura fatto la festa di compleanno di una trasmissione che si tiene qui a Radio Città Fujiko. Ah, grande, non lo sapevo. E che quindi che trasmissione. Siamo vostri ascoltatori e sostenitori, quindi non vi faremo mai concorrenza, sicuramente. Ma, va bene, no, ma la concorrenza leale è un bene in realtà. Anche con più ce n'è di queste radio meglio esatto. Assolutamente. No, ma infatti anche con Radio Città del Campo c'era comunque un bel feeling, nel senso che comunque ci conoscevamo tutti e sapevamo benissimo chi faceva che cosa e ci stava perfettamente, capito? Anzi, appunto. Quindi quando... possiamo concludere dicendo che c'è bisogno di spazio? Spazio libero? Possiamo concludere dicendo che c'è bisogno di spazio, ma tu hai già fatto radio perché ti sei accorta dall'orario che ci dobbiamo già salutare. No, in realtà abbiamo ancora un minuto. Cos'altro? Aspetta, no, sicuramente vi siete dimenticati di qualcuno, per cui no, abbiamo parlato di tutti. Grande, che bello. E dunque la prossima volta, il prossimo evento aperto al pubblico che c'è all'ex centrale, sapete già quando è? Giovedì. Questo giovedì? No. Non questo giovedì perché è Pasqua, cominciano le ferie. Il prossimo evento grosso che abbiamo in realtà ad Ex Centrale. Sì, devo andare sul vostro Facebook. No. La festa delle scuole mercoledì 5 aprile. Esattamente. Ah beh, cavoli, è questo mercoledì? Cioè, nel senso cosa festa succede? Delle scuole, nel senso che appunto tra le tante realtà che attraversano Ex Centrale c'è anche un collettivo di studenti medi, di studenti e studentesse medi delle scuole superiori che si chiama Scuola in Lotta, che organizza una festa di inizio vacanze a Ex Centrale, una festa underground di pop in cui ci saranno ci sarà la griglia attiva open mic, DJ set, balotte, presa bene. Grande. Tutte giovani. E questo è giovedì sera, naturalmente. Cioè, questo giovedì. Il 5 aprile. Il 5 aprile, oggi è il 3, per cui è dopodomani. Dopodomani, mercoledì 5 aprile. Sì. Hai appena detto giovedì, scusa. Mi sono sbagliato, era il 5 aprile. Il 5 aprile, dunque, oggi è il 3, domani è 4. Ah, per cui è mercoledì. Sì. È mercoledì, non è giovedì. Sì, ok. Sì, adesso facciamo che, guarda, adesso apro il file dell'angolo della menzione e lo aggiungo. Perché così tanto lo trovo su Facebook, giusto? Sì. No, su Instagram. Su Instagram, perché sono giovani, certo. Boomer, no, Facebook. No, ma infatti ormai chi è che va su Facebook? Io. Giusto, te, appunto, ecco. Che sei un, non dico una boomer, ma... Quasi, grazie. E... Scherzo. Vabbè, continuiamo nel dire che Ex Centrale sarà aperto il 15 aprile per una serata benefit con dei concerti punk. Ah, grande, chi c'è? E un po' di gente in realtà. Vado addirittura a prendere l'evento perché potrei dimenticarmi qualcuno. Un secondo, perché no, vai tranquilla, tanto vedo che quelli di Panta 80 non sono ancora arrivati, per non cui sono ancora arrivati, rallentiamo tutto e fingiamo che non siano le 20:55. Allora, i Guerra Oax da Bologna, i Guerra da Forlì e un DJ set di Darlas, e la serata è benefit per un progetto sulle spese legali che si chiama Impliqué, che è un progetto di mutualismo per i dannati, come li definiamo noi, quelli che hanno problemi legali. Mm-hmm. Quindi venite in tanti e in tante, ovviamente, all'Ex Centrale. Poi ovviamente saremo aperti giovedì 20 per il dopolavoro, e a suo giro abbiamo un concerto live di un gruppo bolognese che sono molto bravi, che si chiamano i Maniacs, okay. Che fanno alternative rock. E poi siamo aperti sabato 29, perché ovviamente c'è il 25 aprile, noi andiamo al corteo ovviamente antifascista, dove certo. Speriamo possiate venire tutti e tutte, e ci poi saremo aperti di nuovo il 29 con una serata anche quella un po' grossa del giro sempre dei Sound System, mm-hmm. che ci sarà questo artista famosissimo giamaicano che si chiama Dub Judah, che non si è capito come abbia accettato di venire a suonare da noi, ma faremo questa serata qui, e per aprile grande siamo là. Invece per maggio ci dovete seguire perché ci sono un sacco di cose fantastiche in cantiere, giusto? Ma naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com metteremo tutti i vostri link, per cui non ci sarà nessun tipo di scusa per non seguirvi. Grazie mille Federico e Sissi di Ex Centrale. Grazie a voi. È stato un vero piacere conoscervi e naturalmente ci salutiamo con le solite gentili parole del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Ah, non l'avevate. Non l'avevate mai sentita questa? Sì, l'avevo sentita in realtà. Però ora sentita in cuffia mi ha fatto ridere parecchio. Io ero Stefano W. Pasquini e questo era Coxo Spaziale. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao, grazie. Alla fine del mondo sotto il vestito. Bellissimo. Biondino. E biondino. Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro? Di giorno in giro delle sette chiese. Di notte poi fino alle sette a club. Il brutto giro ma del bel paese. Greg non dorme da due giorni fa. Il mio biondo è inconfondibile. Forte, forte, forte come la Carrà. Non parti, questo è un crimine. Un po' trap, un po' techno, un po' cyberpunk. Non lo so cosa fa questa musica qua. Dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua. Cosa fa? Che fini mondo per capirlo biondo che stava su di me. Sarà volato, ma come strano gli è fatto proprio su di me. Che fini mondo per capirlo biondo che stava su di me. Sarà volato, ma come strano gli è fatto proprio su di me. Che senza sentiero, non vedi amore. Cosa tocchi, lo sai quanto costa un cifro? Un milione. Airbag si attivano perché mi urti. Bevo drink storti coi poteri forti. La serata è calda come Jerry Scotti. Colazione all'after con i biscotti. Non lo so cosa fa questa musica qua. Dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua. Come fa? Che fini mondo per un capello biondo che stava su cine. Sarà volato.